annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.